trasmettiamo Proxy Bar. Proxy Bar. Proxy Bar. L'after hour sulle applicazioni e sui contenuti della rete che migliorano la qualità della vita. In studio Antonio Pavolini e Daniela Apollonio. Solo su Radio Imago. Buonasera a tutti da Antonio Pavolini, benvenuti a Radio Mago, benvenuti a Proxy Bar. Normalmente dico anche benvenuta a Daniela Apollonio, che però oggi è sostituita dal nostro direttore artistico Attilio Torrone, che parlerà dietro il vetro. Beh, sostituire Daniela è impossibile, però questa sera sì, in effetti ci sono io. Buonasera a tutti. Allora, il motivo è che parliamo di radio e il direttore naturalmente è un esperto e appassionato di radio, altrimenti non avrebbe messo in piedi questa splendida iniziativa di Radio Mago. E ne parleremo sotto il profilo, diciamo così. Vedo Attilio che mi... Più che esperto, un sognatore. Un sognatore. Portiamo un pioniere che porta avanti un sogno che speriamo di riuscire a raggiungere. Benissimo, allora in realtà questo è il secondo installment, come direbbero gli anglosassoni, il secondo episodio di un approfondimento sul futuro della radio che già abbiamo iniziato a giugno sotto il profilo tecnico in compagnia di Andrea Lauen del Corriere della Sera e di radiopassioni.it. E oggi invece proviamo a parlare del futuro della radio, soprattutto dal punto di vista normativo, istituzionale. E lo faremo con una persona sicuramente che è in grado di darci molte risposte. Possiamo cominciare. Dal 1895, all'inizio cioè dei miei primi esperimenti, io ebbi la forte intuizione, direi quasi la visione chiara e sicura, che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze. Quiet, please. Good evening, ladies and gentlemen of the radio audience. This is Graham McNamee speaking. Again, we bring you a period of delightful entertainment. There's a great sensational wonder today. Allora, io darei il benvenuto in trasmissione all'onorevole Enzo Savarese di Alleanza Nazionale, che è commissario all'autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Benvenuto. Grazie, buonasera. Devo solo dire una cosa, non sono più di... nel senso che nel momento stesso in cui sono stato eletto all'autorità ho rinunciato a qualsiasi carica di partito e titoli, sì. Perché l'autorità è un ente indipendente, quindi... Benissimo. C'è una pluralità, fatto siamo quattro della attuale maggioranza e quattro dell'attuale opposizione, proprio per garantire il pluralismo che è una voce necessaria. D'accordo, bene, io ho tratto questa informazione dal sito certo. dell'autorità. Dunque, in particolare l'onorevole Savarese fa parte della Commissione per le infrastrutture e le reti, corretto? Correttissimo. Di che cosa si occupa l'autorità? Ma guardi, l'autorità è stata istituita nel 1997 su richiesta dell'Unione Europea per garantire alcune cose. La prima, la liberalizzazione dei mercati di telefonia, quando le grandi società di telecomunicazione, che una volta erano pubbliche, con reti pubbliche, si affacciavano alla concorrenza e quindi entravano nuovi entranti, scusi il gioco di parole. E successivamente sono state date all'autorità poteri in termini di televisioni, di par condicio, di tutela dei minori e poi tutta quello che riguarda il contenzioso fra cittadini e società di telecomunicazione, servizi non richiesti, bollette non trasparenti, ADSL che non funzionano, eccetera, eccetera, eccetera. Oltre ciò c'è un'attività paragiurisdizionale, quindi sostanzialmente di contenzioso fra gli operatori, temi come interconnessione, come tariffe di terminazione, collegamenti fra diversi operatori, perché poi il cittadino non sa che magari chiama un numero e sta parlando con un altro operatore, eccetera, le tariffe che paga, eccetera. Bene, in particolare la Commissione per le infrastrutture e le reti? Allora, in particolare la Commissione per le infrastrutture, io dico sempre che noi siamo un po' l'hardware e gli altri colleghi sono il software. C'è una battuta, forse un po' volgare, però si dice che si passa dall'ultimo miglio all'ultima mutanda. Cosa vuol dire? Che la Commissione per le infrastrutture e le reti si occupa prevalentemente di temi che riguardano i collegamenti e le infrastrutturazioni del sistema, avendo riferimento all'uguaglianza di accesso da un punto di vista tecnico, da un punto di vista anche economico. La Commissione Servizi e Prodotti si occupa del prodotto che viene trasmesso, quindi in questo caso se noi per esempio adesso ci mettessimo a fare, che ne so, bestemmie in diretta, i miei colleghi si interesserebbero perché abbiamo utilizzato un mezzo radiofonico. Certo. Beh, è già molto che si parla di mezzo radiofonico, perché non siamo poi sempre riconosciuti fino a questo livello. Poi magari approfondiremo anche questo punto. Allora, la scorsa estate, nel corso di questo convegno che organizzò Arianti Corallo, lei provò a fotografare la situazione normativa della radio in Italia, delineando anche le prospettive future sia in materia di standard digitali. E in quel convegno c'era anche una parte espositiva dove era molto facile provare queste nuove tecnologie, sia in materia di ripartizione delle frequenze. Io le chiederei di ripetere un po' quello sforzo di sintesi molto efficace che... Beh, la ringrazio per la supposta efficacia, però era mattina, adesso è sera, quindi comunque sostanzialmente abbiamo dato via un processo di consultazione fra le parti interessate, fra gli operatori, per arrivare quanto prima possibile a definire degli standard omogenei di digitalizzazione, cercando di superare quelle che possono sembrare, che possono essere delle guerre fra le grandi radio, e per grandi intendo le radio che attraverso consorzi o attraverso presenze massicce sul territorio nazionale rappresentano buona parte del fatturato in termini pubblicitari, Radio Dimensione Suono, certo. Radio Maria, cioè, insomma, le conoscete, dalle radio più piccole che svolgono un servizio secondo noi altrettanto importante, perché sono finalizzate e localizzate al servizio di comunità e che non hanno gli stessi mezzi, per cui noi riteniamo che si debba contemperare da una parte la necessità di garantire una ricevibilità del mezzo radiofonico, cioè non è possibile che cambiando 500 metri, poi la radio tradizionale, la radio web e altra cosa, la radio tradizionale, voi mi insegnate, si ascolta molto in automobile, quindi si ascolta, e quindi ogni 500 metri, un chilometro non si può avere una perdita di segnale. Quindi c'è stata una un avvio di sblocco del canale 12 che attualmente è utilizzato per la televisione, e quindi apertura di nuovi canali. Contemporaneamente, fatto significativo che rispetto a quel convegno è nuovo, Rai Way finalmente si è mossa e quindi ha cominciato a fare la sperimentazione in alcune aree, mi pare in Emilia Romagna, insieme a alcune radio di Arianti Corallo, su modelli alternativi al DAB, quindi per vedere se sia compatibile la pluralità di sistemi, cosa che noi riteniamo che, diciamo, vediamo come va la sperimentazione, ma da un punto di vista, siccome siamo per l'assoluta trasparenza e indipendenza, la tecnica non deve entrare nelle scelte e noi non dobbiamo entrare nelle scelte tecniche purché siano compatibili, e a questo punto il fatto nuovo appunto è questa sperimentazione che sta cominciando a dare dei buoni risultati. Ecco, vanno bene questi standard digitali come il DAB, o anche più efficienti come l'FM Extra, sì, no? Che permette, sì, di usare lo spettro preesistente, o il TDMB, però tutti questi standard necessitano, questo lo dicono insomma molti osservatori, dell'innesco di una sorta di circolo virtuoso, cioè qualcuno da un lato che produce i canali e dall'altro qualcuno che produca ricevitori a basso costo. Finora nessuno, diciamo, è riuscito a innescare completamente un circuito concorrenziale rispetto a quello della modulazione di frequenza. Non sarà mica che alla fine arriverà prima internet a distribuire gratuitamente canali radiofonici, ma anche televisivi gratuiti su dispositivi che già esistono, come i telefonini wifi, usando reti wireless che tra poco ci saranno, come il WiMAX per esempio. Io ve lo auguro e me lo auguro. Esatto. E la difficoltà che vedo è, fino a che non riusciremo ad abbattere i costi di collegamento alla rete internet sul telefonino, sui mezzi mobili soprattutto, che ancora sono eccessivamente elevati per permettere una fruibilità completa. e poi le difficoltà e i limiti che noi stiamo cercando di superare, perché il wifi, come voi sapete, non è presente in parecchie zone del paese. E il WiMAX, cui abbiamo aperto recentemente la gara, è stato bloccato per anni, mettendoci agli ultimi posti in Europa, da presunte servitù del Ministero della Difesa, che voleva addirittura 400 milioni di euro per liberalizzare queste frequenze. Dopodiché io credo che la gara, più o meno discutibile, ci sono contestazioni eccetera, però le gare vanno fatte, e credo che poi alla fine l'ammontare non supererà i 30-40 milioni di euro, che mi sembra la cosa più logica. A che punto è? Guardi, il disciplinare è stato già approvato ed emanato, quindi a questo punto stanno partendo le offerte, ci sono già delle associazioni, dei consorzi. La cosa interessante del WiMAX è che, al di là degli, diciamo, degli operatori tradizionali, si stanno creando anche comunità montane rispetto, sì, a province o a comune, che si stanno mettendo insieme per arrivare a coprire zone di territorio. D'altra parte, lei sa che una delle motivazioni doveva essere proprio la, così, superamento, o il parziale superamento, di quello che in gergo si chiama il digital divide, quindi la differenziazione tra aree del paese più o meno avvantaggiate. Detto ciò, ritorno alla domanda. Sicuramente internet ha delle potenzialità che vengono spesso misconosciute anche dal regolatore. Io parlavo ieri a un convegno e facevo una battuta, ricordavo una vecchia citazione di De Filippo. Per i più giovani, De Filippo era un grande attore napoletano, il quale un giorno dice, parla col suo maggiordomo, il maggiordomo, cameriere, gli fa: commendatore, c'è la televisione al telefono. E lui gli fa: passagli il frigorifero. Perché? Perché c'era questi tre elementi, questi tre elettrodomestici. Oggi televisione e telefono sono sostanzialmente la stessa cosa. Televisione, telefono, internet sono praticamente la stessa cosa, poi a seconda dello strumento in cui si utilizza. Parlare di offerte triple offer, convergenti, o quadruple offer, oggi è una cosa, diciamo, non dico banale, ma è una cosa nel vissuto di tutti noi. Qual è il problema, secondo me? Il problema è che la regolazione spesso non riesce a stare al passo della evoluzione tecnica. Mi spiego meglio. Anche se noi, per esempio, siamo stati tra i primi, se non i primi in Europa, a regolare il VoIP piuttosto che il DVBH, quindi la trasmissibilità televisiva su telefonino di terza generazione, però ci si è arrivati comunque, pur essendo i primi in Europa, dopo che il mercato ha già creato, attraverso lo sviluppo tecnico, attraverso poi le reti alternative che si creano, l'aspettativa diciamo dell'utente. E qui per il regolatore non è facile, perché il web è per sua definizione uno strumento libero, è il massimo delle libertà possibili. Però una delle cose che ci vengono addebitate è, dice, vabbè, ma voi per esempio regolate le trasmissioni radiofoniche, non ovviamente con la censura, ma regolate nel senso del fasce orarie, affollamenti pubblicitari, tutela dei minori e quant'altro, le trasmissioni televisive, le trasmissioni radiofoniche, poi dopodiché fenomeni come YouTube per quanto riguarda la televisione, o fenomeni come le radio sul web, che sono un fenomeno di grande democrazia per quello che permettono di offrire, sono assolutamente liberi. È vero, è giusto, secondo me, che siano assolutamente liberi, poi però bisogna fare anche un quadro che permetta di non superare quelle che sono delle norme imperative, appunto la tutela dei minori, piuttosto che la qualità del servizio, piuttosto che l'affollamento pubblicitario, per evitare che poi diventino dei contenitori di sola pubblicità. Quello non è ancora un problema delle web radio? Assolutamente no, assolutamente no. Quello che, per esempio, è un problema e che bisognerà cominciare ad affrontare, io credo, è il discorso dell'audiradio, il discorso della verifica dei contatti anche ai fini della raccolta pubblicitaria, perché voi sapete che abbiamo recentemente risolto il problema dell'Auditel con l'entrata di Sky, ma paradosso che Sky, che oggi rappresenta per fatturato, ha superato la Rai, che fosse fuori per esempio dal fenomeno di monitoraggio dell'audience che poi è usato da Lupa, dall'associazione utenti pubblici, dall'associazione fa la pubblicità, per definire i criteri pubblicitari. La stessa cosa è il fenomeno delle web radio e delle televisioni locali, delle televisioni sul web. Beh, la web radio però è l'unica che ha una certificazione. I nostri dati di ascolti sono noti e sono rilevabili. Sono assolutamente rilevabili in qualsiasi momento. Sì, però non entrano nel circuito diciamo pubblicitario, pure se sono rilevati, non sono non ancora. Ci arriveranno. Facciamo una piccola pausa e ritorniamo subito. Mamma diceva sempre che Radio Imago è come una scatola di cioccolatini. Non sai mai quello che ti capita. Bene, insomma, questo inserto serve un po' per cambiare forse la direzione di questa trasmissione e per parlare soprattutto delle mille vite della radio, che è risorta molte volte dalle sue ceneri. Io la chiamo la Fenice. È proprio per queste sue caratteristiche di semplicità, no? Che le hanno sempre permesso, per esempio, di far comunicare le due trincee di una guerra mondiale, anche solo diffondendo nell'aria una canzone mitica attraverso la terra di nessuno. Lei crede che la radio sia un mezzo di comunicazione antico o moderno? E le rispondo da ex politico: antico e moderno allo stesso tempo, antico per storia, moderno per fruibilità e vivibilità. Lei si ricorderà quel bellissimo film di Woody Allen, Radio Days, certo. O belle canzoni, la radio che libera la mente. Io credo che la radio sia forse anche chi le parla, quando era ragazzo ha creato una radio quando ancora si potevano occupare abusivamente le frequenze, adesso non lo diceva, se l'autorità mi sanziona, comunque è radio alternativa, ma le radio sono uno strumento di libertà molto più della televisione, sia perché per definizione è uno strumento molto più facilmente interattivo, in cui c'è più dialogo, poi perché la televisione io lo considero uno strumento sostanzialmente passivo al momento, a parte i fenomeni televisivi sul web, di TV autoprodotte, di TV di comunità, che sono comunque un fenomeno da studiare e da valutare. Però concettualmente uno si siede in poltrona o a letto e vede qualcosa che gli viene presentato, sì, c'è il pay per view, il TV on demand e quant'altro. La radio è diversa, perché la radio ti segue in mobilità, ti segue in cucina, ti segue in bagno, la senti durante la doccia. Sì, e poi soprattutto l'interazione è sempre esistita dal momento in cui gli ascoltatori intervenivano per telefono, i fili diretti. Ecco, l'altro giorno io sono stato a questo seminario al DAMS, qui all'Università a Roma, di David Andy, che è uno dei grandi personaggi di BBC Radio 4, che è stata creata a un certo punto dalla BBC proprio per ridare dignità alla parola, alla radio parlata, in un momento in cui tutto il resto della radio andava in un'altra direzione. Lui ha scritto questo libro che racconta la storia di BBC Radio 4, che si chiama Life on Air, e nel corso di questo seminario ha fatto una specie di gioco con gli studenti e ha chiesto, con una domanda molto semplice, qual è il ricordo più antico che ciascuno di noi ha della radio. Io vorrei fare un giro partendo da Attilio, che insomma di radio ne ha sentita. Beh, io ho iniziato a 14 anni, ero al liceo e ho iniziato a fare radio. Trasmettevo un programma in una radio locale e trasmettevo e facevo le mie prime indagini. Sì, ma di ascolto? Beh, di ascolto io ho dei ricordi profondi con dei notturni italiani che hanno accompagnato le ore della notte, di certe notti in cui scopri l'amore, in cui scopri quanto è bello vivere su questo pianeta nonostante tutto. Grazie proprio a degli occhi femminili e a una radio che ti tiene compagnia. E invece? Invece anche io due momenti diversi. Il primo, quando andavo a scuola, che assolutamente il venerdì bisognava uscire prima dell'una per sentire la classifica delle hit più vendute e quindi bisognava sentire questa radio. Lelio Luttazzi. Sì. E la notte Radio Luna, che ci accompagnava con le sue trasmissioni. Poi un po' più grande sentivo una trasmissione che si chiama L'Uomo della Notte, che mi piaceva girare di notte per le strade di Roma e sentire questo scrittore con la voce pastosa, mi pare che si chiamasse Vittorio Schiraldi, che parlava di tutto, e devo dire che mi ha accompagnato. Invece dal punto di vista attivo, appunto con questi amici con i quali facevamo attività politica a 15-16 anni, mettemmo insieme, io ero più giovane, questa radio alternativa che faceva controinformazione quando, diciamo, c'erano sia a destra che a sinistra queste radio che servivano anche come momento di coagulo di attività, eccetera. Devo dire che è stato un bel periodo, secondo me, ma non tanto per il rimpianto della giovinezza andata, quanto perché effettivamente attraverso la radio si creava dell'aggregazione, della socializzazione, che è molto meglio di quella che si può creare a Campo dei Fiori o in altri posti oggi a Roma. Io vorrei riportare quello che era raccontato in questo seminario David Andy, che dopo aver fatto questa domanda agli studenti che avevano 20-25 anni, quindi non potevano andare molto indietro, però lui ha parlato di quello che faceva lui, di cosa si ricorda lui, e cioè del fatto che veniva messo a letto dai genitori verso le 8-8:30 dopo cena. Poi gli inglesi mangiano molto, molto presto, e lui era molto molto felice di andare a dormire, e nessuno ha mai sospettato, almeno per un paio d'anni, che lui si portasse una radiolina sotto il cuscino. Posso interromperla, sì, per farla sorridere? Io ho un figlio di 7 anni che viene messo a letto dalla madre anche quando ci sono le partite, e lui ha riscoperto una radio di quelle portatili, e la sera si mette la radio sotto il cuscino quando ci sono le partite e accende la radio e poi racconta come è andata la mattina e si è sentito la partita fino alla fine. Vabbè, questo gioco serviva un po' a mettere in evidenza il potere evocativo, no, della radio rispetto a quella tipica autosaturazione dell'immagine televisiva, come dice sempre il mio amico. La radio ha un rapporto intimo che la televisione non avrà mai. Ecco, però a questo convegno di ieri, no, che c'è stato a Palazzo Marini, dove si parlava di TV, di web e di TLC, si è parlato di tutte queste belle cose, ma di radio pochissimo. E non sarà mica che la stiamo, dal punto di vista istituzionale, nuovamente sottovalutando? Guardi, questo è effettivamente è un rischio. Io ho partecipato a vari incontri di associazioni radiofoniche, di raggruppamenti, che come lei sa ci sono varie che si contendono la primazia, eccetera. Il rischio c'è che di fronte al modello televisivo e ai problemi e ai rischi che sono connessi all'utilizzo della televisione, la radio passi in secondo piano. Però la consultazione pubblica sull'evoluzione al digitale, che comunque è un fatto estremamente positivo, perché la radio digitale è una svolta da un punto di vista qualitativo, qualitativo tecnico, attenzione, poi qualitativo dei contenuti, altra storia. Però mi sembra che ci sia un'attenzione maggiore. E lo dimostra anche il numero di radio presenti in Italia, che insomma supera le 1000, e c'è il paro di radio su modulazione di frequenze. Radio web non abbiamo un censimento, è una cosa che mi propongo di... Ce ne sono tantissime. C'è il primo censimento è stato fatto, comunque lo stanno facendo, la SCF, un consorzio di cui poi magari le chiederò qualcosa, perché va bene, intanto però sono centinaia. Centinaia, però a livello proprio di piccola stanza amatoriale. Ma guardi, l'importante secondo me non è la stanza, eccetera, è il livello di micro, anche di micro community che riesce a crearsi intorno a una radio, perché credo che poi il futuro sia sempre di più quello della specializzazione. Per cui la radio che parla ai tifosi della Lazio, per dire, quella che parla agli amanti di Caravaggio, quella che credo che questo sia il futuro della radio via web. Poi anche bene, facciamo un'altra pausa, ci sentiamo tra poco. My hair now, and wondering what dress meglio di te. Lo ritrovi su Radio Imago. Radio Imago. Bene, dunque, torniamo in studio, torniamo in diretta. Fino a qualche tempo fa credevamo che avremmo passato tutti un sacco di tempo a guardare la televisione in movimento, no? Si diceva il DVB-H, si diceva la PlayStation viene usata per vedere i film, tutte cose che tecnicamente si possono fare. Poi ci sono state le videotelefonate, no? Presentate come una grande killer application della fonia mobile di terza generazione, poi rivelatasi in realtà un'applicazione un po' sopravvalutata. Insomma, vediamo sempre più persone in realtà che in movimento, invece che vedere qualcosa su uno schermo, preferiscono ascoltare qualcosa. Vediamo questa generazione delle cuffiette, che non è più soltanto la fascia necessariamente 18-25, c'è una, diciamo, uno sdoganamento della cuffietta, tutto sommato. Perché poi, oltre alla musica, si possono sentire podcast, si possono sentire gli audiolibri, adesso... E naturalmente anche la vecchia radio in FM che ha recuperato ascoltatori in questo modo. Che cosa vuol dire tutto questo, Andrea? Questo vuol dire che se il contenuto è un contenuto, come dire, appealing, cioè un contenuto che piace, il mezzo diventa tutto sommato meno rilevante. E allora evidentemente la radio è stata capace di seguire l'evoluzione dei gusti, le possibilità offerte da una molteplicità di programmazione in maniera più intelligente di quanto non sia stata capace di fare altri mezzi di trasmissione. Il grosso limite, per esempio, del DVB-H è che, a parte la copertura tecnica e quindi le aree non si prende, eccetera, è che non è stato ancora concepito il prodotto giusto per il mezzo. Cioè, è quello che dice anche Roberta Enni, no? Che per un po' se ne è occupata in Rai. Sì, sì, assolutamente. Cioè, non si può fare il resize degli stessi programmi. Non si può vedere. Quando lanciarono il film con la Nicole Kidman, sì. Fra l'altro ci furono i proprietari di sale cinematografiche, scioperarono, boicottarono il film perché era stato trasmesso sul telefonino. Ma io dico, ma chi sano di mente se vede un film di due ore con i duelli in elicottero, eccetera, sul telefonino. Quindi la radio ha sicuramente degli atu, basta che non si metta a copiare male la televisione, cosa che in passato, devo dire, aveva tentato pure di fare. Ma sì, ma perché c'è stato un momento di crisi in cui la radio ha temuto la concorrenza della televisione, così come in passato aveva temuto la concorrenza del telefono, no? C'era la radio circolare agli inizi e il telefono. Guardi, io ho fatto una volta un confronto tra radio e televisione, più o meno come tra teatro e cinema. Qualcuno temeva che col cinema il teatro sarebbe morto. Il teatro, se è di qualità, non muore, e non è morto, anzi lo stacco di biglietti, la SIAE ha detto, è aumentato. Cioè si muore quando non si è capaci di sentire gli umori del mercato e del mercato che è in continua evoluzione, perché poi è composto di persone che crescono in maniera diversa, che hanno diverse aspettative, diversi valori, eccetera. E quindi il fenomeno, il fatto che, cioè, io che non sono un ragazzino, la sera piuttosto che vedere la televisione preferisco andare su Google e andarmi a cercare delle cose, vuol dire che comunque c'è un'evoluzione in tutti noi. Beh, a proposito di indicatori abbastanza incontrovertibili, secondo Nielsen gli investimenti pubblicitari nella radio nel 2007 sono saliti oltre il 6%, 6.2%, quelli in internet, vabbè, è un caso a parte, addirittura del 40%, molto interessante, ma ne parliamo in un'altra sede, quelli nella TV sono fermi o scendono, secondo lei perché? Perché io credo che a un certo punto ci sia anche un problema di elasticità della domanda e dell'offerta, cioè la televisione poi non è, nei giorni scorsi l'Unione Europea ci ha detto anche che abbiamo un affollamento pubblicitario eccessivo, è vero che il free to air abituato in cambio di non avere pagamenti di canoni eccetera ha un'offerta molto legata alla pubblicità, però evidentemente si è raggiunto anche un livello di saturazione, quindi poi il mercato è quello, più di tanto non si può fare. Bene, insomma, credo che abbiamo coperto parecchi temi in modo forse disarticolato, ma nello stile un po' informale di questo che vuole essere più un salotto. D'altra parte è una radio. ringraziamo l'onorevole Savarese per la sua partecipazione gradita, speriamo di averla ancora ai nostri microfoni. Grazie a voi, buonasera. Quell'inserto io lo mando lo stesso, o no? Ma cioè, sì, c'era un terzo inserto, se lo vuoi mandare, per sì. Tanto per chiudere. Britanniques qui travaillaient au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge. Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin 40. Avez-vous présent à l'esprit une vision possible du camp du drap d'or? Sans aucun doute, même si elle est vague. Transposez donc cette vision dans le temps et dans l'espace. Nous ne sommes plus en France en 1500 et quelques, mais au cœur de la ravine. You've changed. That sparkle in your eyes is gone. Your smile is just a careless yawn. You're breaking my heart. You've changed. 'Cause you've changed. Your kisses now are so blasé, and you're bored with me in every way. I can't understand. You've changed. You've forgotten the words I love you and the memories that we share. You've ignored all the stars up above you, and I can't realize that you ever cared. 'Cause you've changed, you're not the angel I once knew. No need to tell me, I know we're through. It's all over now. proposito di bugie che hanno le gambe corte, di sistemi che si autobilanciano, che funzionano, allora possiamo parlare con Frida di Wikipedia, di questa rivoluzione che rappresenta, perché in realtà la cultura che è nelle mani di tutti, oltre che disponibile a tutti, che può essere gestita da tutti secondo un modello partecipato e che vari studi hanno dimostrato funziona, perché laddove la gente potrebbe anche mentire, spesso e volentieri non lo fa e se lo fa viene in qualche modo controllata. Allora, qual è secondo te, perché, come funziona Wikipedia e perché funziona? Perché non diamo per scontato che tutti sanno che cosa sia e perché dovrebbe essere consultata. Scusa, ho visto una cosa che viene utile. Perfetto. Questa è un'enciclopedia. E Wikipedia, possibilmente. E non si vende, non si compra, forniamo la penna e chiunque ci può scrivere sopra. Sostanzialmente questa è la differenza tra questo foglio e la Treccani. Probabilmente quando io l'ho incontrata, l'ho conosciuta, ci sono arrivata, non c'era un unico foglio, ce n'era qualcuno di più e su qualcuno c'era anche scritto qualcosa. E l'invito era a andare avanti a compilarlo. Wikipedia è questo, è un'enciclopedia che viene scritta da tutti gli utenti della rete in maniera collaborativa, rilasciata con una licenza libera per cui la gente poi può riutilizzare i suoi contenuti, citando la fonte e citando gli autori, tant'è che fiocca nella rete copie di Wikipedia dove la gente semplicemente si crea un sito, mette sui contenuti, ci mette della pubblicità e ha fatto un business, chiaramente. E, studi recenti e meno recenti parlavano di una percentuale di errore dove io non ricordo il numero cosa indicasse esattamente, ma se la Treccani era 4, Wikipedia era 3, era 4, la Britannica era 4, era 3, era 4. Nature, nel dicembre del 2005 ho fatto uno studio confrontando le voci scientifiche dell'edizione inglese di Wikipedia con la versione della Britannica, e su 100 voci che hanno studiato hanno scoperto che la Britannica aveva in media 3 errori per articolo e Wikipedia 4. Tenuto conto che la Britannica ha credo 5 secoli di vita o qualcosa del genere e Wikipedia ha 6 anni, il risultato non è male. Soprattutto ha un suo prezzo. Decisamente. I detrattori che non mancano, cosa vuoi dire? Scusami. Io volevo dire che prima, quando stavamo parlando del New York Times, dell'utilità degli archivi in rete, uno dei grossi problemi che Wikipedia fa conoscere a chi la usa e a chi ci scrive è il problema delle fonti. Noi cerchiamo sempre di corrobare le voci da delle fonti e devono essere delle fonti attendibili. Un New York Times, un suo archivio, è per definizione una fonte attendibile. Il fatto che venga liberato in rete significa per noi avere un riferimento in più. Nel momento in cui io parlo di un qualche omicidio storico, e sicuramente abbiamo delle voci anche su questo, posso andare a linkare l'articolo dell'epoca che ne parlava del New York Times. Quindi questo è interessante in quest'ottica, la condivisione degli archivi dei giornali tradizionali, quindi dei media tradizionali che hanno tutti i loro crismi di attendibilità, non fa che portare al mulino di Wikipedia che fa il suo lavoro e poi ha una bibliografia più estesa e ancora più credibile. Assolutamente, dal lato opposto se vuoi noi riusciamo a portare più centralità all'archivio del New York Times, perché comunque chi viene a leggere una voce da noi spesso poi dovrebbe ed è solo un punto di partenza per navigare in rete o possibilmente per andare in biblioteca ad approfondire l'argomento. Allora, ieri parlavamo di una cosa piuttosto interessante, cioè l'obiezione che si fa più spesso quando si parla di Wikipedia è: ma io come faccio a dire che questa voce sia attendibile o se trovo un errore? E ti ricordi la risposta sulla quale ragionavamo è: se trovi un errore devi correggerlo. L'idea è quella: se tu trovi un errore, tenere lì conto per come è impostato il progetto, per come si presenta, lo correggi. Ulteriore obiezione può essere: ma se quell'errore io non lo so distinguere. Se quell'errore non lo sai distinguere, quello che noi ti invitiamo a fare è ad avere un consumo critico del prodotto, nel senso che Wikipedia non scrive da nessuna parte che è un prodotto affidabile, non c'è scritto da nessuna parte che c'è qualcuno che garantisce quello che c'è scritto lì dentro. esistono fior fiori di statistiche che dicono quanto siamo più o meno attendibili. Esiste ad esempio la mia esperienza che dice che noi siamo più attendibili di parecchi siti che sono presenti in rete, di tutti quei siti che sono siti di informazione gestiti da una persona. Tendenzialmente noi siamo più affidabili perché abbiamo un bacino di redattori potenzialmente infinito. Sì, quindi il senso è questo, tutto sommato. A parte che si facevano, mi parlavi di statistiche che dicono quanto può permanere un errore, se è grave, se è meno grave, se è sottile, su Wikipedia, sono sempre, si parla di ore, tutto sommato. Sì, sì, sì. Ma la questione è proprio questa, cioè si parla di partecipazione. In questo caso la partecipazione è un elemento chiave per il controllo del sistema, cioè quando arrivi oltre una certa massa critica di utenti, come accade per Wikipedia, succede, che cosa succede? Succede che c'è sempre qualcuno che è in grado di distinguere un errore, quindi anche se tu non sei in grado, qualcuno lo farà poco prima o poco dopo di te, e comunque quando sono cose di un certo rilievo vengono segnalate, perché mi pare che le voci hanno la loro storia. Assolutamente, è possibile, le voci sono come una casa in un certo senso, ed è possibile navigare nella cronologia e vedere mattone su mattone come è stata costruita questa voce, addirittura proprio vedendo i singoli spostamenti, attribuendo le singole parole a chi le ha scritte. Allora, la voce che abbiamo sentito era quella di Frida Brioschi di Wikimedia Foundation, intervistata dal bravissimo Alessio Iacona, che salutiamo. Quasi mi dispiace che di questo video di Intruders TV non abbiate potuto vedere le immagini, lo potete andare a vedere sul sito di Intruders, perché Alessio in questo video era di una eleganza assolutamente abbagliante, ed io che sono uno straccione dei Barcamp dovrò prendere appunti. Comunque, Frida Brioschi ha parlato di molte cose interessanti, l'attendibilità delle informazioni presenti su Wikipedia, anche il tema molto molto caldo della liberazione, no? Degli archivi dei grandi giornali, che cominciano a rendersi conto che offrire l'archivio a pagamento non è neanche redditizio, perché riescono ad avere più accessi e quindi a vendere più pubblicità liberando gli archivi e quindi dando a tutti uno strumento che fino a qualche tempo fa era riservato solo a pochi addetti ai lavori. Bene, dunque, siamo giunti al termine di questa puntata. Io ringrazio Attilio non solo in regia, ma anche come co-conduzione di questa sera. Sì, peccato aver proprio fatto una toccata e fuga. Dovevamo fare un proxy bar di doppio. Doppio, sì. No. Beh, una volta l'abbiamo fatto sulla radio, se ben ricordi, agli Albori. Sì, sì, sì, sì. Infatti mi ha ricordato molto quella puntata. Bene, e la prossima puntata, che sarà l'ultima prima della pausa natalizia, è il 20 dicembre. Parleremo di blog urbani. Lo faremo con alcune persone che si sono prese in carico questa responsabilità di avere un blog sulla propria città, i sindaci digitali, come vengono chiamati, e quindi insomma chiuderemo in bellezza questo 2007. Per il momento io ringrazio tutti per l'ascolto e vi do appuntamento a giovedì prossimo. Radio Imago ha presentato Proxy Bar di Antonio Pavolini e Daniela Apollonio.